sbagliare, ma che significato ha quella bandiera, questa sarda, con quei quattro moretti mai bendati all'occhio? Ma allora il scoperto di quella fighetta, al suo libro, non è in Sardegna. Store. faccio una prova al meccanico Gianni, capito? L'avevamo dovuto ritirare, poi è dovuto durare, cosa si rifava un bavano di rifreno, insomma, un macello. E quindi è per quello che siamo dovuti andare a fare commissioni, e quindi ci avevamo dimenticato San Rado, la Racchino, figurati. Sì, infatti vi abbiamo chiamato io e Giulio, però non ho risposto. Sì, io mi venerdì ho appuntamento quella di mattina per farlo appunto a fare i freni anche io, una piccola però è una grande al posto, una piccolina, ma io devo mettere il pompa nuovo, comprato tutto nuovo. E lì sicuramente hanno cambiato le pastiglie, non hanno sporgato, capito? E quindi si imparava a lavorare. E vabbè, una dimenticanza. Ah, la vanassa hanno cambiato, se hanno cambiato le pastiglie non devi sturbare assolutamente nulla. Ah, le ganasce, ho capito dietro, sì. No, a me le ganasce mi ha cambiato l'operatore meccanico. Adesso sto mettendo la pompa dei freni nuova, non le pastiglie, la pompa dei freni, l'olio, sto cambiando dei freni, non ho messo a punto, capito? La pagava, la ganasce mi aveva già cambiata perché c'era il freno a mano e tirava tutto su, allora mi hanno messo le ganasce nuove dietro, le pastiglie sono nuove davanti, però anche a me ogni tanto mi scende il pedale, capito? È stata già spurgata eccetera, però ce l'ho comprata, la sostituita, l'avevo comprata, me la sostituisce venerdì. Sì, perché quello lo fa quando l'olio torna indietro, allora mi scende il pedale, così sono i gommini consumati. Sì, i gommini consumati, l'olio è vecchio, capito? Anche la macchina non è ferma, adesso piano della posta, sulla parte meccanica queste stronzate, poi il prossimo mese entra la carrozzeria e così a posto, uno che mette le due gomme davanti, dietro sono nuove e piano piano sta lì, come tenuto a posto, mi serve per andare a lavoro, capito? Ma no, guarda, non sto lavorando tutti i giorni, io ci sono andato in moto con la macchina avanti, sto lavorando tutti i giorni la macchina a posto, quindi devo fare queste fesserie che sono indispensabili per la sicurezza, però diciamo intanto ce l'ho a novembre, quindi c'ho il tempo di fare tutte le cose, regolare i fari, anche fesserie devo fare. Ieri ho preso il pannello di dietro, proprio il cofano, poi te l'ho già comprato, devo entrare in carrozzeria, adesso finisco la parte meccanica, poi lascio la roba da 3-4 giorni, la mette a posto, e così siamo a picche. Infatti, a me cazzo! Mi hanno fatto osservazione per la lampadina della targa, ma io ero cincurvaggio, scusa di parlare, ma se io non lo sapevo che era fulminato. Maledizione. No, io le luci infatti le ho fatte tutte appena giubilate, c'è una luce a targa bruciata, c'è una lampadina in posizione bruciata, una freccia non funzionava. Portata del troppo, mi ha messo tutto a posto con la parte lì, perché io d'inverno viaggio al buio, capito? La mattina presto. Chi ti piace a Camillo vedo sempre i carabinieri, ma lui più anche di Giosso. E per una lampadina che costa 2 euro ti fanno 35 euro di multa, capito? Quindi non conviene. Infatti, avevano fatto osservazione e poi adesso sono più serviti facendo la revisione, ci sono anche le telecamere. Sì, sono a posto, soprattutto di luci, freni, deve funzionare tutto, la sicurezza deve funzionare tutto, se no non tiene revisione le macchine, capito? Infatti io sto facendo mettere a posto tutta la parte frenante, freno a mano, tutto, e l'idroguida vabbè è già a posto, c'è l'idroguida anche in quella, e tutto deve essere a posto, perché se no non tiene revisione, cioè, non ho venuto là, purtroppo. Prima aveva niente da dire al libretto, beh, revisionami la macchina, se tra come se era a posto, efficiente al 100%, perché sennò andi e si rambi a mari. No, io lo sapevo dalle telecamere perché ho portato a revisione quella che usavo per portare i funzionari e quindi l'usavo allora e c'erano le telecamere. Sì, sì, ma hanno fatto bene, ti ripeto, per questo è stronzato, perché molta gente, no? Amici degli amici, capito? Soprattutto i meccanici, gli avvaziani. Vedevo il libretto, andavano, si facevano revisione del libretto, però non la macchina, si fa buttare la macchina, capito? Facevano così. Molte macchine circolavano a coso, a singhiozzo, no? Nel senso che una cosa non funzionava, l'altra funzionava, capito? E allora, non ho fatto bene, non ho fatto bene. Perché non andiamo a motorizzazione a fare revisione, invece ne vai di macchine. Una freccia che non funziona, vai, metti a posto la freccia e torna. Uno te ne ha mandato chi va via, infatti un dice che stanno consumati, vai, compra le spatole e poi ritorni. Sì, alla motorizzazione. Adesso dice che rilasciano cose per i chilometri, pure per non poter stare a carico da chilometri. Quindi non so cosa su di me va. Sì, ma tutte queste cose che stanno uscendo la stessa notizia sono cose serie, capito? Tu andai a comprare una macchina di 2-3 anni, magari avevi qualche rappresentante che ha fatto 200.000 km, capito? E io organizzando 120 e te la danno per 80.000 km e tu la compri e dice cazzo, questa macchina nuova, sei rappresentante, la tengono molto bene la macchina. No, chilometri ne fanno, è giusto, la usano per lavoro. Tu li dai ok, giri chilometri, la vendi magari 2-3 mila euro in più, una nuova nuova, pochi chilometri, usata bene, qui e là tu la vedi in buone condizioni e la compri. Poi andi a fare la magari che stai tagliando, no? Per dire è una Fiat, vai alla Fiat a fare tagliando, prendono il check-in list della macchina e risulta con 230.000 km. E tu preso, vai da figura, vi fai. Noi ci abbiamo le macchine lì in plan, capito? Sono tutte lì le macchine, oramai quelle vostre, le nostre, anche quelle dei carabinieri sono in leasing, capite? Sono tutte lì in plan, Arval, tutte società di leasing, no? 100.000 km ogni 2 anni, a noi fanno così, o 100.000 la cambiano, o 100.000 km o entro i 2 anni, capite? E noi abbiamo il check-in list, tutti i mesi quando io consegno la documentazione della macchina, ho un check-in list dove lavorare la situazione delle gomme, la situazione dei tagliandi, tutti i percorsi fatti, tutto, alla A alla Z, e lo vogliono, capito? Proprio per la questione del derogaggio. Figurati. No, io facevo ogni giorno, segnavo i chilometri, tutto. Io ho tutto lo stesso a bordo. Tutto, c'è una cartella proprio dedicata alla macchina, capito? Quando io prenoto le gomme, c'è un checklist anche per le gomme. Bisogna sapere la misura della gomma, se la gomma è efficiente, se è consumata da una parte, dall'altra, al centro, quanti chilometri ha fatto, se no non tiene giamba niente, non te la fa, controllano il percorso, se hai fatto strade bianche, se sono state consumate su asfalto, capito? Controllano tutto e fanno bene, perché c'è un bel di gente furba, c'è un bel di gente furba, capito? Un bel di gente furba. Pensano che la gente sia ignorante. Infatti, io se la uso sia nel camioncino che nella macchina, perché io ne avevo due. Siccome io quando dovevo caricare la merce prendevo il camioncino, quando invece dovevo trasportare i funzionari prendevo l'altra. Vabbè, certo, quella è la rappresentanza. Aspetta, a trigo, ma c'era Filippo, mi sono capisciato che era più di 6:30, aspetta. Sugornuto di pizzo. Allora, sugornutone. No, non mi. Se vuoi tu la domani avrete un ruttino, lo sai? L'aino. E là, e poi c'è andava sul gorluto dell'incontro assassino. Ah, così è. Allora, per far ruttino, lascio sicurica, un pochetto, e aspetta che lo porto, capito? Sette e mezzo, passeggiatina, ora se l'ingrande di baffi, le piace un bel croquette di pesce da vedo io, le ammorbidisco un pochino, capito? E via, e così è. E io pulsato, hai su uguale. Lui c'è una gana di sci. Ah, lui c'ha voluto sci, se tremolendi. Ah, se fa un attimo, a mille o mille ha già fatto. Mia madre, ad esempio, poi ci faccio venire un paio. Sono uguali a quelli. Uguali. Sono bucci. Ma la zampa, mazza, perché Filippo ha taranca quando vuole la vetturina. Vedi, io invece, se è stato dritto, lo fate munire con il saggio. Filippo solleva la zampa, capito? Non mi tratta così, solleva la zampa, la prima ne ha una, la vuoi attra l'altra. E allora, è educato, fa così lo porta almeno, perché Rita l'amica l'ha visitato di lungo tempo, Rita non si è fatta vedere che stava lendo ancora. C'è il portone? Ehi, ehi, già sono qui. Sì, c'è il portone aperto, che entra? Ehi, sono quelli di Pitti, sono quelli. Sì, non ve la mitraglietta. Allora, la sugani da Ianna. Mi su di parlare la giura, che non mi scegheggia. A fare il bongo di castello. Le bongo davanti alla Ianna. Le bongo Rugani e a Edda. Se vuoi trovare tutti e due, cerca di entrare senza permesso. E allora, attenti al cane che spara. Ho bisogno di cartelli pure di vendere. Attenti al cane e anche al padrone. Beh, mi pare ovvio. Allora, gappa. Acciaio dove è andato mio dietro? Gagliari, tutti e due, anche gli altri due ha venduto. Ah. Ma che? Tutti e due in coppia li hanno voluti. Mi prendeva, è tu contento, lui sciacca i piedi. Lui ha anticipato, no? Sì, ma lui non è un allevatore di qua, però è... conosce un bel di gente, capito? C'è il patentino, è un destratore anche lui. Lui partecipa a me a queste cose, capito? Fa un giro di telefonate. Subito, tutte e cinque, tutte e cinque. Tre a Olissano e due a Cagliari, ma che femmina. Lo sa, se lei non c'era di niente che c'era, anche questo è un suo amico allevatore, lo stesso, capito? Lui c'ha altre due femmine, quindi il maschio ce l'ha, perciò. Chi c'ho? Una che camminava per la parte di Cantumagna, dice, e si dice sotto la gatria. Si mette sotto la sedia a girevole, capito? E poi si grimbiati. Ma con il locondo non si è fatto più sentire. Aspetta, perché sto prendendo un muso. Vieni con le ingendi. Stamattina l'ha fatto mia moglie, e ovviamente allora fa di schifo. Vabbè, Alghero, non c'è nessuno? Valerio? Ma se mi hanno aperto un che sono al telefono. Ehi, ehi, fai, io sono qua. Avanti! Ma sì, va bene abbastanza, va bene non entrare. Vabbè. Se no, non c'è mai una foglia. Sto lontano per portare il cane. No, vabbè, io vado. sì, sentiamo dopo, ok? Se sono io al telefono, sono capo di telefono, mi giro in le... Vabbè, va, ne parliamo dopo. Vabbè, è scuro a terra. Natali! Uia! Finito, ho capito il telefono. Uia, uia. È già entrato? No. E allora che c'era qualcosa da fare? Sì, sarà prendere di commissione lui, sarà prendere un cane, io dai. Sarà 20.05 sono, sarà a portare il cane. Eh beh, io quando arrivo lui sta andando, capito? Grazie di dirappa, eh. Anche lì te lo dopo, ti arrangi. Ragazzi, Filippo, no, no, mi sa faccio chissà su delinquente assassino. Le braccia te ne stacca, le braccia. Ma tira, tira, è un sempre con un carruzzo. Attira, tira. È una cosa allucinante. È impegnativo è quello lì. A parte che fa una puttana paurosa quel cane. Sta scherzando. Mamma mia, arrivo, guarda tanto. Ma che hai fatto 6 ore con un motto picco? Non ti darà poco, ya. Guarda, Natalia, non credere, veramente, non credere. Sto dicendo che 80 kg se li tira luci, giù prendimi, giù prendi. Immagina già dei bratti lì. Ehi, Yalo, ma quello non sta attento. Si va di gaggi puro, ma che è forte il cane, è un splendido. Sono cani impegnativi, io non avrei mai voluto un cane così. Sono belli, è quello che vuoi, ma no, sono troppo impegnativi. Impegnativi luci, meglio che pugliese, c'è tutto gelato. Oh, mica c'è fresco qui. Fai tutto gelato. Allora, vai vicino ai 35 gradi fuori. Luce, è l'affanno che non faccio. Figurati. Ah, perché ti vuole bene Massimiliano, me? Ma me, Massimiliano, dov'è Massimiliano? Dov'è? Dov'è Massimiliano? Ma vai dentro la gamba. Ma che dite se buttiamo Massimiliano di dare un tigre, mi piglio questo chihuahua. E il cambio già ti conviene, giusto? Poi bisogna venire, sarebbe stato un madrone. Ah, è pure attaccata. E quella è un bellissimo cane, è attaccata a Massimiliano, la moglie, la figlia. Ma lui ha fabbricato con Firenze, Massimiliano, conosci la macchina? La macchina conosce, capito? È allucinante. Lui, no, ma è bravo, è che lui deve sciacquare i bracci. Anche quello di Gianni, mia santo, di Raghisso. Cazzo. Ciao, Raghisso di guinzaglio di Graziato, Gianni, mamma mia. Lo so, ma è stata più, tutti in modo si tirano. Però questi bulldog inglesi sono una cosa allucinante. Poi il mio è taglia gigante, capito? Non è di quelli piccolini. Sarai vicio. È tutto questo, tutto un rossa proprio, le piace tirare, è da piccolino che è dell'Imbrasia. Infatti io perché le ho messo la piccolina, lui ce l'ha da piccolino. Perché con quel taglio si strozzava, capito? Col collare si faceva male, faceva tutto il segno, tutto ruvido, giotto, diciamo, tirava con un gotto. Adesso invece tirava il petto. E si diverte pure, ecco questo, si diverte buono. Posso fare i traini dei rimorchi. È un trattore di sugami. Studiato. Non credo che si può fare l'area di Dio. Ci vuole dire che lì fermo la prova per catturare la goccia, la pettolina, una fune, dove si riesce a buttare la macchina. Secondo me la scopo la macchina, guarda, allucinante, è una cosa, non viene bene a dirlo. Sì, come vuoi, cazzo, sì, mica vedo pure una mano di refuccia. Quel cane, c'ha una buccia indemoniata là. Lui vede quando è in tira, quando sta tirando, come ti fa, come ti diventa? Si abbascia tutto proprio, dai, ogni si sollevamento pesi, si abbascia. Senza tirare fuori il cattivino davanti, ribunta, ma zinga, vai, ma zinga, allucinante. quello che ti fa sudare, sono americani, è bellissimo, perché è bellissimo, però è un cane troppo impegnativo, a me mi piace un po' questo qua. Guarda, se vedi i cuccioli natali, una goccia lucidante. L'ho portato a casa bianco, con gli occhi rossi, ma bianco, bello, la femmina. La moglie l'ha detto, dai a Filippo, teniamoci questo. Che più minore, ma la... Ciao, ecco, Cristina. Filippo è un campione, manno. Ando a me cosa, che lo yoga, cazzo, di cui va colpi, compresi, e lui si gioca con Massimiliano. Con Parigi mi dà Massimiliano, allucinante, guarda i grovo, dove piatti, li piatti. E quando siamo qua in stanza, che io lo chiudo nel salone, no, vuoi entrare, che è Massimiliano, capito? Lo so, e vabbè. Lui, ragazzi, santo Antonio. Capisco mia moglie la mattina lo porta lì, che a volte mi telefona, questo cane non lo porto più, per poco mi fa cadere, e la comprendo, è uscito. Sì, non avevo il cerulega, non aveva una voce indemoniata sul cane, un trattore. Allucinante, è una voce allucinante, e dopo, vedo quello va. Questo ci abbiamo, questo ci teniamo, oramai, ti vedo. Vieni qua, dove sei? Non ti fermi, io quando non lo vengo, vengo e... La gente c'è che apre il cabinato, ho letto il culo, una giuscia. Ma sei più comodo.